C'è un'artista bolognese, sconosciuta ai più, che è stata la prima donna a intraprendere la carriera nella scultura durante il Rinascimento. Si tratta di Properzia de Rossi, un personaggio affascinante quanto controverso, dalla vita segnata dalla passione, una passione bruciante per l'arte, ma anche per un amore turbolento che ne segnerà la carriera e l'esistenza, quello con Anton Galeazzo Malvasia, che sarà podestà di Imola. Properzia nacque a Bologna intorno al 1490. Non ci sono notizie precise al riguardo, ed era figlia di un notaio. Già era difficile, se non impossibile, intraprendere la carriera nelle arti per la figlia di un artista, figurarsi per la figlia di un giurista. Ma Properzia non era una ragazza come le altre. Il suo carattere indomabile e la sua spregiudicatezza la spinsero a perseguire il suo sogno, non importa a quale costo. Pare che avesse una predilezione verso la ruvidezza dei marmi, l'asprezza del ferro e l'interesse per le cose meccaniche. Scrisse di lei il Vasari. Properzia de Rossi da Bologna, giovane virtuosa non solamente nelle cose di casa come l'altre, ma in infinite scienze, che non che le donne ma tutti gli uomini l'ebbero invidia. Proprio l'invidia degli altri, soprattutto dei colleghi, fu una vera spina nel fianco per Properzia, che per tutta la vita dovette difendersi da calunnie e da ciò che oggi verrebbe definito mobbing, ovvero ogni genere di abuso sul luogo di lavoro. Conosciamo poco o nulla degli anni della formazione di questa straordinaria e anticonformista donna del passato. Si crede che sia stata autodidatta, ma è possibile che abbia frequentato la bottega di Marcantonio Raimondi, nella quale avrebbe appreso le tecniche fondamentali dell'incisione, per poi esercitarsi nella scultura in altri cantieri cittadini. Continua il Vasari. Costei fu del corpo bellissima, e sonò e cantò nei suoi tempi meglio che femmina della sua città. E perciò che era di capriccioso e destrissimo ingegno, si mise ad intagliar noccioli di pesche, i quali si bene e con tanta pazienza lavorò, che fu cosa singolare e maravigliosa il vederli, non solamente per la sottilità del lavoro, ma per la sveltezza delle figurine che in quegli faceva e per la delicatissima maniera del compartirle. E certamente era un miracolo vedere in su un nocciolo così piccolo tutta la passione di Cristo fatta con bellissimo intaglio, con una infinità di persone, oltre ai crocifissori e gli apostoli. Da queste parole apprendiamo che Properzia aveva una straordinaria capacità di intagliare figure nei noccioli dei frutti, realizzando capolavori piccolissimi, uno dei quali potrebbe essere lo stemma della famiglia Grassi, conservato all'interno della cattedrale di San Pietro. Nel telaio in filigrana d'argento si trovano incastonati 11 noccioli, forse di albicocche o susine, con incise figure di santi e apostoli realizzate con straordinario dettaglio, considerate le dimensioni. L'attribuzione, tuttavia, non è confermata da documenti storiografici. Il suo capolavoro, nonché l'unica opera a lei attestata con certezza, è senza dubbio il bassorilievo Giuseppe e la moglie di Putifarre, che è possibile ammirare all'interno del Museo della Fabbriceria di San Petronio, all'interno della Basilica. In questa formella, definita da Vasari un leggiadrissimo quadro, Properzia pone la figura femminile al centro della scena, una figura vibrante, potente, alla maniera di Michelangelo, al tempo stesso pervasa da una sensualità prorompente, con il seno della donna che sfugge dalle vesti, con una donnesca grazia e più che mirabile. Si dice che fu questa opera da tutti riputata bellissima e da lei di gran soddisfazione, parendole con questa figura del Vecchio Testamento avere sfogato in parte l'ardentissima sua passione. Tuttavia, proprio l'ambiente della fabbriceria di San Petronio, dove era riuscita a inserirsi grazie a uno straordinario ritratto in marmo di Alessandro Pepoli, che all'epoca ne era presidente, si rivelò ostile alla talentuosa scultrice, al punto che il suo lavoro fu pagato molto meno rispetto a quello dei colleghi maschi. Il suo più grande oppositore fu il pittore Amico Aspertini, determinato a stroncare la carriera di una pericolosa concorrente, il quale con accanimento approfittò della sua influenza presso la fabbriceria per screditare Properzia in ogni modo, arrivando a citarla in giudizio insieme al collega Vincenzo Miola con l'accusa di aggressione. Ma si trattò davvero di aggressione? O Properzia si era solo difesa dalle continue vessazioni? Indomita, audace, impulsiva, l'artista è considerata la prima scultrice dell'era moderna e di lei rimane il vibrante ritratto di una donna emancipata in fortissimo anticipo sui tempi. Morì di peste nel 1530, prima di compiere 40 anni. Una settimana dopo, Papa Clemente V giunse a Bologna per incoronare Carlo V ed espresse il suo rammarico per non poterla incontrare. Queste le parole del Vasari. Onde al Papa, che era volenteroso di vederla, spiacque grandissimamente la morte di quella, ma molto più a suoi cittadini, li quali, mentre ella visse, la tennero per un grandissimo miracolo della natura nei nostri tempi. Giallo alla bolognese.